4A. Ascolta e completa. Mi raccomando, signorina, sia puntuale. Mi raccomando, signore. Sia gentile con me. Mi raccomando, signora. Sia generosa. Mi raccomando, signorine, siano prudenti. Mi raccomando, signori. Siano pazienti con me. Mi raccomando, signore. Siano ottimiste.